La Cicogna Nera. Sono le 9 in punto, ben trovati a tutti gli ascoltatori alle sonorità popolari contemporanee della Cicogna Nera. Siamo di nuovo in onda dopo un paio di settimane, apriamo subito questo giovedì con una singolare rilettura di due grandi poeti e mistici dell'Islam, Rumi e Hafez. سرکش تنگش ببرکش گه جامی زرکش گه لالی دل خو ما را بیرندی افسانی کردند ما را بیرندی افسانی کردند پیرانی جاهل شیخانی گمراه پیرانی جاهل شیخانی گمراه لیدن ویلیشی سیگه فرانی Sergo 06 49 17 50, il numero di diretta qui nei nostri studi, se volete chiamarci. Studi che questa sera dall'altra parte del vetro sono pieni di compagni. Radio Onda Rossa è un po' in fermento questa sera. Oppure la Cicogna Nera @ondarossa.info è il nostro indirizzo di email per qualsiasi comunicazione. Jalal al-Din Rumi, conosciuto ai più come insomma uno dei massimi poeti, dei esponenti della letteratura persiana e della mistica islamica, della mistica musulmana, in particolare della corrente sufi, grazie che molti no, sanno che è stato lui che ha dato vita, ha dato il via alla confraternita dei dervisci rotanti. Intanto mi scuso perché è già partita la prossima canzone in sottofondo, ma è un po' presto per lanciarla, perché volevo dirvi ancora due informazioni di base rispetto a questo pezzo iniziale che abbiamo sentito, e che praticamente, come vi stavo dicendo, parte proprio da Rumi, Jalal al-Din Rumi, e da un altro mistico che si chiama Kwaya Samsu Din Muhammad Hafez Shirazi, poeta persiano nato e morto in Iran. Entrambi, Rumi è super giù del XIII secolo, Hafez del XIV, e sono alla base di questo progetto che si chiama I Venus Spiel, che si dovrebbe significare Nello specchio del vino, una bella singolare collaborazione molto potente tra Masha Vakhdat iraniana e un coro norvegese che risponde al nome di Skruk. E dunque c'è questa un po' questa fusione tra la poetica tradizionale persiana, anche alcune canzoni ex novo scritte da Masha, e la musica sacra norvegese, e anche, perché no, un pochino di atteggiamento di fondo di jazz, grazie al pianoforte di Tord Gustavsen, al basso di Tal Mads Eilertsen e alle percussioni di Kenneth Ekornes. Lei, a Masha Vakhdat, insieme a Erik Hillestad, hanno proprio collaborato nel tentativo, sicuramente riuscito, di tradurre alcuni dei versi di questi due grandi mistici dell'Islam in norvegese. E dunque ci sono delle tradizionali melodie persiane proprio riscritte da questi due, che prendono corpo proprio in modo molto singolare tra due mistiche molto distanti, quella occidentale e quella islamica. Assieme a questo album, assieme al coro dei Skruk, c'è anche un libro, è stato rilasciato, di questo album del 2010, libro proprio delle poesie di Hafez, si chiama 100 poesie scelte, ed è stato proprio tradotto da Masha Vakhdat, che in realtà non so se sia a distanza in Norvegia o dove abiti, e pubblicato dalla Press Publishing House. Il libro e l'album sono tutti e due decorati con delle miniature persiane del 1400 che sono state prese da un museo di Copenaghen in Danimarca, museo che dovrebbe chiamarsi David's Samling. E questo Hafez, insomma, è un po' sicuramente meno conosciuto di Jalal al-Din Rumi, però le sue poesie si ritrovano in tante, tante case di parlanti persiani, soprattutto in Iran, che li continuano ad usare, no? come massime, come proverbi di tutti i giorni. E i temi dei suoi ghazal sono proprio quelli della persona amata, della fede, dell'ipocrisia. Ghazal, che ricordiamo, sono, insomma, proprio brevemente, sono dei componimenti poetici in lingua urdu e persiana, che hanno preso il via super giù nel VI secolo, nella prima parte della Casida, grazie al poeta persiano Sanai Ghazna. E quello che forse differenzia, questo mi sta venendo in mente, della poetica, della letteratura, no? Dell'Islam, della soprattutto quella mistica, rispetto a quella occidentale, che per i mistici musulmani, così, ognuno di noi deve avere accesso diretto alla misericordia del suo Dio, no? A prescindere dal suo orientamento religioso. E i mistici, appunto, si ritrovano in tutte le religioni, però così, nella mistica sufi, nella mistica persiana, i grandi poeti, i loro pensieri, le loro idee sono veramente tra i punti salienti, tra i punti più alti della letteratura mondiale, e vengono ancora oggi omaggiati, riletti, ritradotti, ricantati. Insomma, c'è veramente un grande rispetto per queste persone. Andiamo avanti. Allora, facciamola partire la canzone che era già partita prima, anch'essa una voce femminile, un album uscito da poco, si chiama Azam Ali, o Ali senza accento forse, anche lei è iraniana, però è di stanza a Montreal, in Quebec. Ha appena pubblicato From Night to the Edge of Day. Yeah. Le madri cantano, canticchiano ai loro figli appena nati da tempo veramente immemorabile, e non bisogna mai sottovalutare il potere della ninna nanna, delle lullabies come questa Dandini di Azam Ali, appena pubblicato da poco per un'etichetta di stanza a Istanbul, la Double Moon Records, l'album più intimo di Azam Ali. Di stanza lei invece a Montreal, in Canada, e lei è diventata madre nel 2008 e ci dice insomma che la prima notte di vita del figlio era lì a guardarlo, era seduta sveglia accanto a lui stordita fino all'alba, e così ha cominciato a cantare, era sotto shock fissando questo suo figlio, questa creatura appena nata, e ha capito, ci dice lei, che il miglior modo per comunicare con lui era senza linguaggio ma cantandoli qualcosa. E cantare ad un bambino probabilmente è una cosa molto profonda, no? Va al di là del mero scopo di farlo addormentare, e le donne in effetti lo fanno da migliaia di anni. Le ninne nanne sono più che strumenti musicali, sono veramente delle entità misteriose, no? Sono dei mezzi potenti attraverso i quali una madre riesce ad inviare ai propri figli dei messaggi diretti sulla vita, piuttosto che sulla natura, sulla gioia, sul dolore, sull'amore, sulla bellezza. Tutto questo ci dice Azam Ali, che pubblica questo album dal nome Dalla notte fino al bordo del giorno, e che raccoglie tesse dei canti tradizionali provenienti da tutto il Medio Oriente, da diverse culture, però tutte comunate da una matrice comune, quella appunto delle ninne nanne, delle lullabies. Alcune sono anche così una riletture nuove, alcune anche state scritte su misura. Andiamo ad ascoltarci un'altra canzone da questo nuovo album, si chiama Lai Lai. I'm not afraid to die. Melodie azere, tagiche, melodie arabe, persiane, melodie turche come nel caso del classico Dandini che abbiamo ascoltato prima, o di questa Lai Lai che invece arriva dall'etnia minoritaria del Kurdistan iracheno, precisamente un testo del dialetto Sorani proprio dell'Iraq. E tutte queste, no, queste melodie ci stanno un po' a identificare l'abbattimento di tutti i muri culturali, politici, religiosi, anche a dispetto, no, del conflitto, diciamo, del muro tra i turchi e i curdi che si sta riacutizzando un po' in quest'ultimo periodo. E non sono le parole il messaggio, no? Il messaggio sono proprio i sentimenti. Proprio a proposito di questo ultimo suo lavoro, Azam ci dice: noi siamo gente dell'est, siamo gente che anche se le nostre strade, insomma, ci sono state portate via, siamo state portate in esilio. Lei, ricordiamo che poi è nata in Iran, però poi è cresciuta un po' in India ed è dovuta andare in esilio negli Stati Uniti dopo la rivoluzione islamica del 79. Insomma, la nostra eredità, continua ancora Azam, ci scorre in profondità come la più antica degli alberi, e le nostre canzoni raccontano molte storie, storie che non dovrebbero mai essere dimenticate. Azam Ali e collabora con tante persone. In questo album ci sono gli strumenti a corda di Tal Loga Ramin Torkian, c'è un po' di elettronica invece di Carmen Rizzo, che sono due componenti che ritroviamo in un altro progetto di tutti questi tre, un progetto che vi abbiamo già passato, che si chiamano i Niyaz e che tra l'altro sono proprio in uscita, forse tra un mesetto, in questa primavera stanno uscendo con un nuovo album che si dovrebbe chiamare, vediamo se lo ritrovo, Su Mood, un album. Dunque appena lo avremo ve lo passeremo. E lei, Azam Ali, insieme a Loga Ramin Torkian fanno parte un po' di questa di questi minuti della Cicogna Nera, perché sono moglie e marito e praticamente contemporaneamente escono con due progetti paralleli. Escono anche lei un po' rivolta, no, verso il figlio Iman, si è un po' settata così. Loga Ramin Torkian invece fa un altro album, esce con un altro album che andiamo anche questo ad ascoltare, si chiama Mehrab del 2011, la canzone che facciamo partire sotto è Gavan. We'll be right back. primo album solista per Logar Amin Torkian, ricordiamo cofondatore degli Axiom of Choice e sicuramente più conosciuti rispetto a Niyaz, e diciamo sicuramente anche il sentimento, l'espressione musicale di questo album va anche nella stessa direzione dei Niyaz, cioè quella un po' di una mezcla tra la melodia persiana, in particolare quella della mistica sufi, con l'elettronica trance. Lui, che è un polistrumentista soprattutto di corde, appassionato del saz turco piuttosto che del tar, che del setar, in questo album, in questo Mehrab, ha una collaborazione fantastica, una grande voce che risponde al nome di Khosro Ansari, uno diciamo dei più grandi interpreti delle melodie tradizionali iraniane e della sua poesia, una voce sicuramente incredibile che ci dice le sue melodie, la scelta delle sue poesie sono diventati proprio parte integrante e attiva di questo progetto, di questa espressione per Mehrab. Ansari, che può essere sicuramente così considerato tra i migliori cantanti del Radif, che è il repertorio classico persiano. Mehrab significa santuario, il santuario nel caso di Loga è un santuario no virtuale, è un santuario dove lui ci si può perdere per sperimentare una realtà che non ha una verità, cioè è una realtà che non ci sono dei dogmi, in cui non ci sono delle ideologie dogmatiche. È proprio questa espressione, questo sentimento che lui vuole ritrovare all'interno di questo progetto. È una musica che dovrebbe funzionare, ci dice Loga, come un luogo per tutti noi, un luogo che deve divenire così un posto in cui essere veramente veramente liberi. جهان بردار بندن سر زلفش بر از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست، هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکن. Intanto è passata la prima mezz'ora della cicogna, noi stiamo sempre trasmettendo i suoni dal mondo, le sonorità popolari contemporanee che vanno in onda ogni giovedì dalle 21 alle 22. Nel frattempo dall'altra parte del vetro lo studio qui a San Lorenzo si sta un po' svuotando e noi invece continuiamo con le nostre musiche, ci stacchiamo solo leggermente dal repertorio così persiano-iraniano in cui ci siamo immessi inizialmente, perché andiamo insomma a pescare quel Carmen Rizzo di cui vi dicevamo prima, che è un cofondatore dei Niyaz, in cui ci sono marito e moglie Azam Ali e Logar Ramin Torkian, che vi abbiamo passato con i suoi due progetti solisti. Carmen Rizzo è un manipolatore elettronico e soprattutto un produttore che ha avuto alle spalle veramente diverse importanti esperienze, e una di queste del 2009 precisamente con un gruppo tuvano, forse probabilmente il gruppo tuvano più conosciuto qui in Occidente, gli Hun Kurtu, gruppo tuvano che ricordiamo la Tuva è una piccola repubblica indipendente della Russia federale. E Carmen Rizzo e Hun Kurtu pubblicano Eternal nel 2009, un album che mette appunto l'elettronica di Rizzo con i suoni, degli altipiani del Centrasia, che veramente sono molto particolari, perché da queste parti forse rispetto a tutto il mondo è una delle poche zone culturali dove l'onomatopeicità, se mi passate il termine, ha un portato, una valenza molto forte. I suoni che escono fuori dalla gente, le musiche hanno proprio a che fare con l'imitazione della natura, del vento, dei fischi, degli uccelli, degli zoccoli, dei cammelli, dello yak da queste parti che brontola, o piuttosto del cavallo, no? Gli Hun Kurtu e molti gruppi mongoli ottomani, potete proprio sentire l'incedere del galoppo del cavallo, che è un po' qui il corrispettivo della vacca in India, no? È un elemento sacro, perché è sacro anche nella comunicazione, negli spostamenti. E andiamocela a sentire questa collaborazione uscita appunto nel 2009, che si chiama Eternal, e la canzone che ci andiamo ad ascoltare si chiama Orphaned Child, il bambino orfano, e dovrebbe arrivare praticamente da un estratto da un sito tuvano, un sito buddista tuvano proprio dedicato ai bambini, un sito che si dovrebbe chiamare Doji Mountain. Il lamento originale di questo pezzo si trasforma qui in qualcosa di molto ispirato attraverso l'elettronica di Rizzo e, come avete sentito, il canto armonico, il throat singing dell'Icon Courtois. In particolare qui c'era sia le due versioni, insomma, come dire, le due tecniche del Kargira e dell'Oxumi o Homi, che sono due tecniche un po' diverse. Ricordiamo il canto armonico così proprio in due parole, una tecnica diffusa in queste parti del Centro Asia dove per cui è possibile emettere due suoni contemporaneamente, una tonica di base e un suono fondamentale, e poi far sentire le armoniche sopra, perché in realtà no, ogni strumento, compreso la nostra voce, cos'è il timbro che abbiamo noi, che ha ciascuno di noi, è proprio determinato dalle formanti, dalle particolari armoniche che ognuno di noi ha e che hanno anche gli strumenti musicali. Poi però magari la rifaremo una puntata proprio dedicata a questa particolare tecnica, andremo un po' a riscovare le particolari direzioni in cui si può fare il throat singing. Qui gli Icon Courtois usano questo, usano anche i loro strumenti tradizionali, in questo caso avete potuto sentire qui il Doshpulur, è un liuto che in Mongolia si chiama quasi uguale, si chiama il Morinkur, molto insomma apprezzato, molto importante da queste parti, un liuto a base di legno, soprattutto di pino, e che ha una cassa di risonanza a forma trapezoidale ed è rivestito da pelli di capra, due corde, un doppia corda senza tasti ed è suonato con un archetto, così come un altro strumento molto importante sempre nella Repubblica Tumana che si chiama l'Ijil, sempre a due corde. E quello che vi dicevo prima dell'importanza del cavallo da queste parti sta anche qui, si ritrova anche in questi strumenti che hanno entrambe, tutte e due, sulla testa proprio scolpita la faccia del cavallo, proprio a significare la profonda riverenza, il profondo rispetto che queste persone hanno per questo animale. E andiamo ancora avanti, rimaniamo da queste parti, andiamo ad ascoltare un progetto che si chiama Seda, con due A finali, che significa voce, e che il titolo di questo album si chiama Mongolian Meets Oriental, cioè i mongoli incontrano l'Oriente. Però questa volta no, è un po' strano questo nome, perché non è l'Occidente che va incontro all'Oriente, ma è proprio i mongoli, è proprio il Centrasia che va un po' a guardare verso, no, la cultura iraniana, persiana, verso tutto il Medio Oriente. Questi Seda escono nel 2010 appunto con questo album, c'è un altro progetto quasi parallelo che penso che vi abbiamo passato parecchio tempo fa. Intanto facciamo partire la canzone sotto, che si chiama Tal, perché incontrano gli orientali, perché oltre ai classici strumenti tradizionali qui ritroviamo anche alle percussioni un iraniano, Tal Homid Bahadori, che suona il cajon e tutte un'altra insomma tradizionali strumenti a percussioni dell'Iran. procedere melodico degli altopiani mongolici, degli altopiani del Centrasia, che tentano un po' di fondersi, no? Di trovare una via in comune con le percussioni del mondo persiano. Un progetto, questo del Seda, che vede, oltre al già citato Omid Bahadori, anche Nahara Naran Batar, naturalmente scusatemi la pronuncia, che è Alik Kur. Poi ritroviamo anche il Morin Kur, di cui vi abbiamo citato prima il suo, no? Il suo fratello tuvano, il Dosh Pulur, che è questa sorta di liuto a due corde, il Morin Kur, che si chiama in Mongolia. C'è anche l'Ik Kur, che suona un altro componente, che è un po' più grande, diciamo, come dire, forse un corrispettivo occidentale può essere quello del violino e della viola, o della viola e il contrabbasso, no? Quasi un contrabbasso, questo Ik Kur. E infine abbiamo Ganzorig Davahaku, che è uno strumento, che è un salterio praticamente, un salterio che si suona con due bacchette, che dovrebbe chiamarsi Yokin. Questo il progetto dei mongoli che incontrano l'Oriente. E proprio in Iran torniamo in chiusura di trasmissione, o almeno nel mondo così persiano, perché andiamo ad ascoltarci allora un bel po' di percussioni turche, di quelle pese, insomma, di quelle fatte veramente bene. È un album che vi abbiamo passato a gennaio, ma ve lo riproponiamo molto volentieri, perché vede veramente un parterre di musicisti, di collaborazione all'interno di questo progetto veramente valido. Loro sono una famiglia che si chiamano Treo Cemirani, e sono praticamente tutti percussionisti. Sono Diamshid Cemirami allo zarb e alla vocalità, alla voce, allo zarb, che è praticamente come dire, lo strumento a percussione principe della musica persiana, conosciuto magari anche forse spesso sotto il nome di tombak. E poi ancora gli altri due, Kevian e Bian Cemirani, che sono le percussioni, e che ritroviamo, insomma, che accompagnano Omar Sosa, pianista cubano, piuttosto che Titi Robben dal Bouzouki, un francese appassionato di musiche del mondo. A gennaio vi abbiamo passato invece una canzone che prevedeva la collaborazione con tal Ross Daly, irlandese di origine ma da tempo a Creta. Infatti lui è proprio uno dei massimi esponenti e suonatori della lira e del rebab o rabab cretese. Questa sera invece vi proponiamo un altro pezzo che incontra, come dire, un grande interprete della cora, di questa fantastica arpa dell'area maliana, no? Dell'area occidentale. Lui si chiama Ballaché Sissoko, e appunto fa questa canzone con il trio Cemirani, ovvero Tama. estremamente interessante questa tama che vede l'incontro, no, delle percussioni persiane con la cora di Ballakè Sissoko. Siamo giunti in conclusione e rimaniamo anche per quest'ultima canzone nel mondo, così nel sapore medio orientale o soprattutto persiano, però ritorniamo qui di stanza a Roma perché andiamo ad ascoltare un progetto nato all'incirca un paio di anni fa che vede una collaborazione tra un musicista appunto iraniano che risponde al nome di Peyman Tadayon, che suona vari strumenti a corda, il tar, il setar, il rabab, l'oud, che è il liuto invece a manico corto, e poi abbiamo Sanjay Kansabanik alle tabla, che forse qualcuno l'ha già sentito, se lo ricorda, perché era nell'orchestra di Piazza Vittorio, e l'italianissimo Andrea Piccioni, che è molto conosciuto qui a Roma e che sicuramente possiamo proprio dirlo che è uno dei massimi esponenti mondiali per quanto riguarda il mondo dei tamburi a cornice. E loro hanno formato questi Yar Ensemble, che tra l'altro ho visto al CIP a Centocelle lo scorso anno, e sono veramente ottimi, validissimi, hanno una tecnica veramente strabiliante. E se volete magari potete anche rivederli tra poco, perché dovrebbero essere domenica 25 marzo all'Auditorium. I prezzi non lo so, purtroppo l'Auditorium ha sempre questi prezzi un pochino alti, e vabbè, che se avete due soldi da spendere, insomma, andatevi a guardare, perché sono veramente dei validi musicisti loro, che incontrano i Milagro Acustici per questa sintesi, no, tra la cultura siciliana, italiana e tutto il mondo che va dalla Persia all'India. Allora, gli Yar Ensemble, andiamo a chiudere proprio la trasmissione, mancano 3 minuti, in Noctibus Panis è già qui al mio fianco, pronto a prendere il microfono, a prendere le frequenze di Radio Onda Rossa. Noi invece ci diamo appuntamento giovedì prossimo, in cui, se ce la facciamo, dovremmo presentare un progetto italianissimo, un progetto della Tammorra che è saltato, insomma, da un paio di settimane, un progetto di canti a dispetto, una particolare forma di canto sul tamburo che è diffusa nell'area, nei paesi dell'area vesuviana, a cura di Antonio Marotta. Dunque loro verranno qui, lui e i suoi componenti verranno qui, se ce la facciamo ci faranno un po' ascoltare la loro musica dal vivo. Noi invece allora ci vediamo giovedì prossimo alle 9. Ciao, voglio.